Ora era giunta l'estate e ci si scambiavano le visite. A volte zio Harry o zio Giorgio o il nonno spuntavano a cavallo dai grandi boschi per venire a trovare il babbo. La mamma si affacciava sull'uscio a domandare come stavano tutti e poi diceva: Charles è nella radura. Poi preparava un pranzo più abbondante e si rimaneva a tavola più a lungo. Il babbo e la mamma e l'ospite restavano a parlare un po' prima di tornare al lavoro. Ogni tanto la mamma permetteva a Laura e a Mary di attraversare la strada e di scendere dalla collina per andare a trovare la signora Peterson. I Peterson erano arrivati da poco. Avevano una casa nuova, sempre molto linda e pulita, perché la signora Peterson non aveva nessuna bambina che gliela mettesse in disordine. Veniva dalla Svezia e permetteva a Laura e a Mary di guardare le belle cose che si era portata dalla sua patria di origine: pizzi, ricami colorati, porcellane. La signora Peterson parlava loro in svedese. Mary e Laura le rispondevano in inglese e si capivano perfettamente. Prima che se ne andassero, la signora donava loro un dolcetto per una e loro se lo sgranocchiavano piano piano lungo la strada del ritorno. Laura sgranocchiava esattamente la metà del suo dolcetto e Mary faceva altrettanto e le due metà risparmiate le conservavano per darle a Carrie. Così, quando tornavano a casa, Carrie aveva due mezzi dolcetti che insieme ne facevano uno intero. E questo non era giusto. Loro volevano soltanto dividere equamente i loro dolcetti con Carrie. D'altra parte, se Mary teneva da parte metà del suo dolce mentre Laura si mangiava tutto il suo, oppure se Laura ne teneva da parte una metà e Mary si mangiava per intero il suo, non sarebbe stato giusto nemmeno così. Non sapevano come fare. Così ciascuna ne risparmiava una metà e la dava poi a Carrie, anche se ogni volta erano convinte che la cosa non fosse proprio giusta. Ogni tanto un vicino mandava a dire che la sua famiglia sarebbe venuta a trascorrere la giornata con loro. Allora la mamma faceva le pulizie più a fondo e cucinava di più e apriva il pacchetto dello zucchero acquistato al magazzino. E il giorno fissato si vedeva arrivare al cancello un carro di buon mattino e poi ecco dei bambini sconosciuti coi quali giocare. Quando venivano i signori Hewlett, portavano con loro Eva e Clarence. Eva era una bella bambina dagli occhi scuri e riccioli neri. Giocava, ma stava attenta a non sporcarsi e a spiegazzarsi l'abito. A Mary questo piaceva molto, mentre Laura preferiva giocare con suo fratello Clarence. Clarence aveva i capelli rossi e le lentiggini e rideva sempre. Vestiva molto bene anche lui. Indossava un abito blu, tutto abbottonato davanti, coi bottoncini dorati, bordato di passamanerie, e portava le scarpe con la punta di rame. Le strisce di rame su quelle punte erano così splendenti che a Laura dispiaceva non essere un maschio. Le bambine non portavano le scarpe con la punta di rame. Laura e Clarence vociavano, correvano, si arrampicavano sugli alberi. Mary ed Eva invece passeggiavano composte e conversavano. La mamma e la signora Hewlett si scambiavano cortesie e guardavano un numero di una rivista per signore che la signora Hewlett aveva portato, mentre il papà e il signor Hewlett osservavano i cavalli, il seminato e fumavano la pipa. Una volta venne a trascorrere la giornata da loro la zia Lotti. Quella mattina Laura dovette stare immobile a lungo mentre la mamma le scioglieva dai capelli le cordicelle e poi le pettinava le ciocche in lunghi riccioli. Mary era già pronta, sedeva tutta composta su una sedia. Aveva i riccioli d'oro che splendevano e l'abitino azzurro tutto stirato in ordine. A Laura piaceva il suo vestitino rosso, ma la mamma le tirava tremendamente i capelli che erano bruni invece che d'oro, così che non glieli guardava mai nessuno. Tutti notavano invece quelli di Mary e ammiravano lei. «Là!» disse finalmente la mamma. «Hai i capelli a magnifici riccioli e sta arrivando Lotti. Correte l'incontro tutte e due e domandatele se le piacciono di più i riccioli bruni o i riccioli d'oro». Laura e Mary uscirono e fecero di corsa il sentiero perché la zia era già al cancello. La zia Lotti era una ragazzona molto più alta di Mary. Portava un bel vestito rosa e faceva dondolare per il nastro un cappello di paglia. «Quali ti piacciono di più, zia Lotti?» domandò Mary. «I riccioli bruni o i riccioli d'oro?» La mamma aveva detto loro di chiederlo e Mary era una brava bambina che faceva sempre come le dicevano di fare. Laura aspettò di sentire cosa avrebbe detto la zia Lotti e si sentì molto infelice. «Mi piacciono moltissimo gli uni e gli altri», disse sorridendo la zia Lotti. Prese per mano, una per parte, Mary e Laura e tutte e tre corsero saltellando verso la porta dove le stava aspettando la mamma. Il sole entrava a fasci luminosi nella casa dalle finestre e tutto era lindo e splendente. La tavola era coperta da un panno rosso e il ripiano della grande stufa era di un nero lustro. Al di là della porta che dava in camera da letto, Laura scorgeva il lettino a rotelle al suo posto sotto il lettone. La porta della dispensa era spalancata e permetteva di vedere le buone cose allineate sugli scaffali e di sentirne l'appetitoso profumo. E poi Black Susan venne giù facendo le fusa dalle scale del solaio dove era andata a schiacciare un pisolino. Era tutto così bello e Laura si sentiva così felice e buona che nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quella sera lei sarebbe stata tanto cattiva. Zia Lottie era andata via e Laura e Mary erano stanche e in collera tra loro. Erano andate alla catasta della legna a raccogliere un secchio di schegge e frammenti per accendere il fuoco la mattina dopo. La raccolta di quelle schegge e di quei frammenti non la potevano soffrire, eppure la dovevano fare tutti i giorni. Quella sera la trovavano più insopportabile che mai. Laura arraffò il frammento di legno più grosso e Mary disse: "Fai pure, tanto a zia Lottie piacciono di più i miei capelli, sono molto più belli i capelli d'oro di quelli bruni." A Laura venne un gran nodo alla gola, tanto che non riuscì nemmeno a parlare. Lo sapeva che i capelli d'oro erano più belli di quelli bruni, ma poiché non riusciva nemmeno a parlare, allungò un ceffone a Mary. E subito dopo sentì il babbo che diceva: "Laura, vieni qui." Lei ci andò piano piano, strascicando i piedi. Il babbo sedeva proprio sulla soglia, l'aveva vista schiaffeggiare Mary. "Come ricorderai," le disse il babbo, "ho detto a entrambe che non vi dovete mai picchiare." Laura cominciò a dire: "Ma Mary mi ha detto, non ha nessuna importanza," l'interruppe il babbo, "devi badare soltanto a quello che ti dico io." Poi staccò una cinghia dalla parete e appioppò una cinghiata a Laura. Laura andò a singhiozzare seduta nell'angolo e quando ebbe finito di piangere fece il muso. L'unica cosa buona che le rimaneva al mondo era che in ogni caso toccava a Mary di riempire da sola il secchio di legnetti piccoli per accendere il fuoco. A un certo momento, quando stava già annottando, il babbo disse di nuovo: "Vieni qui, Laura." La sua voce era affettuosa e quando Laura arrivò, lui se la prese sulle ginocchia e se la tenne stretta. Lei rimase a sedere tra le braccia del babbo, con la testa appoggiata a una sua spalla, con uno dei lunghi baffi di lui che le copriva in parte gli occhi, e tutto tornò bello di nuovo. Raccontò al babbo l'episodio per filo e per segno e poi gli domandò: "Anche a te piacciono di più i capelli d'oro di quelli bruni?" Gli occhi azzurri del babbo si posarono luminosi su di lei. "Ma se ho i capelli bruni anch'io, Laura," disse. E questo lei non l'aveva mai pensato. Il babbo aveva i capelli bruni e i baffoni bruni. E lei si convinse che il bruno era un bellissimo colore. In ogni modo era contenta che fosse toccato a Mary di raccogliere tutti i legnetti piccoli per accendere il fuoco. Le sere d'estate il babbo non raccontava favole né suonava al violino. Le giornate dell'estate erano lunghe e dopo aver lavorato tutto il giorno nei campi era stanco. Anche la mamma aveva tanto da fare. Laura e Mary l'aiutavano a strappare le erbacce del giardino, l'aiutavano a dar da mangiare ai vitelli, alle galline. Raccoglievano le uova e aiutavano anche a fare il formaggio. Quando nei boschi l'erba era alta e spessa e le mucche davano tanto latte, era il momento buono per fare il formaggio. Qualcuno doveva avere macellato un vitello perché il formaggio non si poteva fare senza il caglio. E il caglio è quel tessuto che riveste lo stomaco dei vitellini. Il vitellino deve essere nato da poco, in maniera che non abbia mai mangiato altro che il latte. Laura aveva paura che il babbo dovesse ammazzare uno dei vitellini della stalla. Erano così adorabili, uno era di color fulvo, un altro di colore rossiccio, e avevano un pelo così morbido e gli occhi così pieni di meraviglia. A Laura batté forte, forte il cuore quando la mamma parlò con il babbo della necessità di fare il formaggio. Il babbo non voleva uccidere né l'uno né l'altro dei vitellini perché erano giovenche e dopo sarebbero diventate mucche. Andò a parlare del formaggio dal nonno e dallo zio Harry e quest'ultimo disse che gliene avrebbe dato un po' del suo. Dopo aver munto le vacche, a sera la mamma mise da parte il latte nei bidoni, Al mattino scremò quel latte perché con la crema avrebbe poi fatto il burro. Poi, quando si fu raffreddato il latte munto al mattino, lo mescolò a quello scremato e mise il tutto a scaldare sulla piastra della stufa. Un pezzetto di caglio avvolto in un pezzetto di tela era a mollo nell'acqua tiepida. Quando il latte fu riscaldato abbastanza, la mamma strizzò fino all'ultima goccia l'acqua del caglio, avvolto nel pezzetto di tela, e versò quell'acqua nel latte. Rimescolò bene il tutto e lo lasciò in un punto caldo vicino alla stufa. Dopo un po' il latte si rapprese in una massa liscia e tremula. Con un coltello, la mamma tagliò a piccoli quadrati questa massa e lasciò lì i pezzetti mentre la giuncata, cioè il latte rappreso non salato, si separava dal siero. Poi versò il tutto in un panno e lasciò filtrare il siero acquoso e giallastro. Quando non filtrò più siero dal panno, la mamma versò la giuncata in un grande recipiente e la salò, mentre la rimescolava bene. Laura e Mary le stavano sempre vicino, pronte ad aiutarla in tutto ciò che potevano. A loro piaceva mangiarsi qualche pezzettino di giuncata mentre la mamma la salava. Se la sentivano cantare tra i denti. Sotto il ciliegio, davanti alla porta di dietro, il papà aveva preparato l'asse per spremere il formaggio. Aveva intagliato due solchi per tutta la lunghezza dell'asse e l'aveva posata su due pietre, in maniera che un'estremità stesse un po' più in alto dell'altra. Sotto l'estremità più bassa dell'asse c'era un secchio vuoto. La mamma posò sull'asse il cerchio di legno che serviva per fare il formaggio, vi stese dentro un panno pulito e umido e riempì il cerchio di pezzi di giuncata salata fino a colmarlo. Coprì il tutto con un altro panno pulito e umido e in cima posò un disco di legno della misura esatta perché entrasse nel coperchio. Poi, sopra il disco, posò una pesante pietra. Durante la notte il disco scese a poco nel cerchio sotto il peso della pietra. Ne fu spremuto fuori il siero che finì nel secchio scorrendo nei solchi intagliati lungo l'asse. La mattina dopo la mamma tirava fuori il tondo formaggio di color paglierino, grande come il fondo di un bidone del latte. Poi, preparata dell'altra giuncata, salata, ne riempiva di nuovo il suo cerchio per fare dell'altro formaggio. Tutte le mattine tirava fuori il formaggio nuovo, spremuto, e lo spianava da tutte le parti. Gli cuciva intorno ben stretto un panno e poi strofinava su tutto il panno del burro fresco. A questo punto il formaggio veniva posato su uno scaffale nella dispensa. Tutti i giorni la mamma passava con cura un panno umido intorno a ogni formaggio e poi lo ungeva tutto di burro fresco un'altra volta e lo capovolgeva. Dopo molti, molti giorni, il formaggio era maturo e tutto intorno aveva una crosta dura. Allora la mamma avvolgeva ogni formaggio in una carta e lo riponeva sullo scaffale alto. Non rimaneva altro da fare che mangiarlo. A Laura e Mary piaceva fare il formaggio. Alle due bambine piaceva mangiare la giuncata che cantava sotto i denti, piaceva mangiare i pezzi che la mamma tagliava via dal grande formaggio tondo per dargli la sua bella forma liscia prima di cucirlo nel panno. La mamma si burlava di loro quando mangiavano il formaggio ancora acerbo. È la luna che è fatta di formaggio acerbo, dicono alcuni, raccontava loro. Il formaggio nuovo pareva proprio la tonda luna quando spuntava da dietro gli alberi. Ma non sembrava acerbo, era proprio giallo come la luna. È acerbo, diceva la mamma, perché deve ancora maturare. Ma la luna è fatta davvero di formaggio acerbo? Domandò Laura. E la mamma rise. Credo che la gente dica così perché sembra un formaggio acerbo, disse. Ma le apparenze ingannano. Poi, mentre asciugava tutti i formaggi acerbi e tornava a ungerli di burro, raccontò loro della luna morta e fredda che ha come un piccolo mondo sul quale non può spuntare e crescere niente. Il primo giorno che la mamma fece il formaggio, Laura assaggiò il siero. Lo assaggiò senza dire nulla alla mamma e quando la mamma si voltò e la vide in faccia si mise a ridere. E quella sera, mentre rigovernava dopo cena e Laura e Mary asciugavano uno dopo l'altro i piatti, la mamma raccontò al babbo che Laura aveva assaggiato il siero e che non le era piaciuto. Non moriresti di fame col siero della mamma, come capitò invece al vecchio Grimes col siero di sua moglie, disse il papà. Laura lo pregò di raccontarle del vecchio Grimes. E benché fosse molto stanco, il babbo tirò fuori dalla custodia il violino e suonò e cantò per Laura. Il vecchio Grimes è morto, il buon vecchio, e noi non lo vedremo più. Era solito portare un lungo giaccone grigio e liso, tutto abbottonato davanti. La vecchia moglie di Grimes faceva il formaggio col latte scremato. Il vecchio Grimes ne beve il siero, si alzò un vento orientale dall'occidente e soffiò via il vecchio Grimes. Hai capito? Disse il babbo. Quella era una donna cattiva e avara. Se non avesse scremato completamente il latte, nel siero sarebbe rimasta ancora qualche goccia di grasso e magari il vecchio Grimes avrebbe tirato avanti, traballando ancora per un po'. Invece scremò tutto fino all'ultima goccia di grasso e il povero vecchio Grimes diventò così magro che il vento lo soffiò via, fulminato dalla fame. Poi il babbo guardò la mamma e aggiunse: Nessuno muore di fame, dove ci sei tu, Caroline? No. Senz'altro, Charles, disse la mamma, se ci sei tu che provvedi a tutto per noi. Il papà ne fu compiaciuto. Era tutto così bello, con le porte e le finestre aperte sulla sera d'estate, i piatti che facevano dei suoni allegri, urtandosi mentre la mamma li lavava e Laura e Mary li asciugavano, e col babbo che, riponendo il violino, sorrideva tra sé e fischiettava. Dopo un po' disse, Domani mattina vado giù da Harry. Caroline, a farmi prestare il sarchio. Intorno ai ceppi i germogli arrivano già all'altezza della vita nel campo di grano. Se non ci si lavora senza sosta, la foresta si riguadagna tutto il terreno. Il babbo si mise in cammino di buon mattino il giorno dopo per andare dallo zio Harry, ma poco dopo era già di ritorno e, attaccati i cavalli al carro, vi buttò dentro la scura e le due tinozze, il recipiente per bollire la biancheria e tutti i secchi e i mastelli di legno che poté trovare. Non so se mi serviranno tutti, Caroline, disse, ma mi dispiacerebbe troppo averne bisogno d'essere senza. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Domandò Laura, saltellando per la grande agitazione. Il babbo ha trovato un albero di api, spiegò la mamma, e forse ci porterà a casa del miele. Era già mezzogiorno quando il babbo tornò a casa col carro. Laura, che era stata ad aspettarlo, corse al carro non appena si fermò vicino alla stalla. Però non arrivava a vederci dentro. Il babbo gridò: Caroline, se puoi venire a prendere questo secchio di miele, io andrò a staccare i cavalli. La mamma si avviò verso il carro un po' delusa. Non importa, Charles, disse, anche un secchio di miele è qualcosa. Poi guardò dentro il carro e alzò le braccia al cielo. Il papà rise. Tutti i mastelli e tutti i secchi erano colmi di favi dorati che gocciolavano miele. Ne erano colme fino all'orlo anche le due tinozze e anche l'enorme pentolone per bollire la biancheria. Il papà e la mamma fecero la spola tra carro e casa per portare all'interno le due tinozze piene, tutti secchi, tutti i mastelli e il pentolone. La mamma sistemò un mucchio enorme di favi dorate su un vassoio e tutti gli altri li coprì per bene con un bel panno grande. A cena tutti poterono gustare quel miele delizioso a sazietà e il babbo raccontò come aveva trovato l'albero delle api. Non avevo portato il fucile, disse, perché non uscivo per la caccia e poi in estate non c'è molto pericolo di incontrare guai. Le pantere e gli orsi sono così grassi in questa stagione che sono tutti pigri e ben disposti. Fatto sta che prendo una scorciatoia nel bosco e per poco non vado a sbattere contro un grosso orso. Finisco col girare intorno a un fitto di alberelli e me lo trovo lì, alla distanza della parete che ho di fronte adesso. Lui si volta a guardarmi e penso che si accorga che non ho il fucile. Comunque a me non badava già più. Stava ritto ai piedi di un grande albero e le api gli ronzavano tutte intorno. Non lo potevano pungere, dato che ha una pelliccia tanto folta, e lui seguitava a scacciarsele dalla testa con una zampa. Mentre sto lì a guardarlo, lui infila l'altra zampa in un foro dell'albero e la ritira tutta gocciolante di miele. Si lecca tutto il miele dalla zampa e poi l'allunga dentro per pigliarne ancora, solo che intanto io mi ero trovato un bel bastone. Il miele lo volevo per me, quindi faccio un gran fracasso e batto il bastone contro un tronco gridando. L'orso è così grasso e così pieno di miele che si mette giù a quattro zampe e se ne va dondolando fra gli alberi. Lo rincorro per un pezzo. E gli faccio allungare il passo sempre più lontano dall'albero delle api e poi torno al carro. Laura gli domandò come aveva fatto a portare via il miele alle api. Semplice, disse il babbo. Ho lasciato i cavalli lontano, nel bosco, dove non potessero essere punti. Poi ho abbattuto l'albero e l'ho aperto per il lungo. E non ti hanno punto le api? No, disse il babbo. Le api non mi pungono mai. Tutto l'albero racavo è pieno da cima a fondo di miele. Le api devono aver messo via miele per anni. In parte era infatti vecchio e scuro, ma credo di averne preso tanto da bastarci per un bel pezzo, di quello buono e limpido. Laura era dispiaciuta per le povere api. Disse: Hanno fatto tanta fatica e adesso non avranno neanche un po' di miele. Ma il babbo spiegò che di miele per le api ne rimaneva abbastanza, che c'era un altro albero grande e cavo vicino al primo, nel quale le api si sarebbero potute costruire una casa nuova. Era tempo, disse, che si facessero una bella casa nuova e pulita. Avrebbero preso il miele vecchio che lui aveva lasciato nel primo albero, l'avrebbero trasformato in miele nuovo, freschissimo, e l'avrebbero messo da parte nella loro casa nuova. Avrebbero raccolto fino all'ultima goccia quello versato per metterlo da parte e avrebbero avuto di nuovo una grande abbondanza di miele molto prima che venisse l'inverno.